Lei ha già citato le antiomelaridecce che mi si attorciglia la lingua. Il settore delle pensioni negli ultimi anni è stato intervistato. È stato che oggi Antocianine, non lo so, Mimma ci chiama da Bergamo e Fernando dalla provincia di Cremona. Sì, oggi buongiorno, oggi abbiamo le papere. Mimma, buongiorno. Buongiorno. Si impaperi un po' anche lei. Ecco, la prego, per solidarietà. Felicità, basta avere coraggio, all'arrembaggio, col qua qua qua. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. C'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare, da rifare, c'è da fare, c'è da fare. Ecco, ne parlavamo proprio a microfoni spenti. Quante ce ne abbiamo da fare da qui a Natale, io e Nicoletta? Quante se ne accumulano in queste settimane? Non solo i regali e le giornate di festa da organizzare, ma le tasse da pagare, molte altre faccende da sbrigare. Quante rime stamattina. Per tanti questi giorni sono una vera corsa e purtroppo non riescono a sottrarsi da queste preoccupazioni neanche le neomamme o coloro che mamme lo saranno tra poco e che vorranno accedere al nuovo, non è esattamente un bonus bebè, noi per abbreviare stamattina lo chiamiamo così, ma in realtà è il nuovo voucher per usare naturalmente un contributo economico da usare per pagare l'asilo nido o la babysitter. Attenzione, perché la domanda relativa al 2014 va presentata entro la fine del mese. La piattaforma IMSS su cui compilare la domanda si sta preparando proprio in questi minuti, chissà se riusciamo oggi a dare la notizia in diretta. E appena sarà operativa ci sarà la corsa al click, perché l'ordine in cui vengono inviate le domande sarà determinante. E insomma, le cose semplici proprio non ci piacciono. Per fortuna però che oggi noi a Cuore Denari facciamo tutto un punto preciso della situazione per dare una mano a mamme e papà. 800 24 00 24. Allora intanto raccontateci se siete neomamme o neopapà o lo diventerete nei prossimi mesi. Vorreste richiedere questo voucher? Non eravate a conoscenza, ma vi farebbe comodo? Siamo pronti a ricevere tutte le vostre domande. E anche nella parte di cuore parleremo di bambini, ma anche di mamme e di papà impegnate a misurarsi con il mestiere sicuramente più difficile, il mestiere di genitore, un mestiere che si impara ogni giorno sul campo, con tanta fatica e molte paure, perché lo sappiamo bene, la posta in gioco è alta, dobbiamo occuparci dello sviluppo fisico, emotivo, intellettivo e sociale dei nostri figli. Genitori non si nasce, ma si diventa, e in questo processo interferiscono tante variabili, la storia individuale familiare, il tipo di educazione, le sicurezze acquisite, le insicurezze non risolte, la relazione con il partner, i modelli imposti dalla società. E allora che succede? Che ogni genitore si attrezza e nascono stili educativi diversi. C'è il genitore signor sì, che tende ad assecondare i figli, d'altronde sono pezzi e core, come si fa a dire di no? C'è chi invece preferisce prevenire che curare, fa di tutto per evitare fallimenti e insoddisfazioni. In Inghilterra li chiamano genitori spazzaneve. C'è chi invece per il proprio figlio e dal proprio figlio vuole sempre solo il massimo, costi quel che costi, della serie devi essere il primo, e qui scende in campo il genitore mister. E poi ci sono i genitori falchi, che con occhio attento e vigile guardano dall'alto, non interferiscono ma controllano. Abbiamo naturalmente estremizzato, perché questi stili educativi convivono, si alternano, si intrecciano tra loro, e chi è genitore lo sa bene che nel corso degli anni lo stile educativo può cambiare e modificarsi. Ma noi vi invitiamo a restare con noi per riflettere insieme: in quale di questi quattro profili descritti vi riconoscete? In questo momento siete signor sì, spazzaneve, mister o falchi? Ma anche se non siete genitori e se anche non avete quindi figli, provate a pensare che genitori avete avuto e quali sono state le esperienze, di vieti, gli incoraggiamenti e gli esempi che anche a distanza di anni ritenete vi abbiano aiutato a crescere. Ne parleremo alle 11:45 insieme ad Alberto Pellai. Io corro dalla mattina quando mi sveglio alla sera quando vado a letto e molto spesso corro anche nel sonno. Faccio chilometri e chilometri in sogno e la mattina mi sveglio già esausta. Corro, come nella storia del leone e della gazzella, solo che io non vivo nella savana e non sono il leone e non corro per mangiare la gazzella e non sono nemmeno la gazzella e non corro per non essere mangiata dal leone. Corro per essere una brava madre, una buona moglie, una persona affidabile nel lavoro e anche un po' per cercare di esistere per conto mio. Corro tanto, ma non ce la faccio mai. E per tante mamme, lo sappiamo, la giornata è sempre una corsa contro il tempo. In parallelo, anche negli uffici dell'INPS in questi giorni si stanno facendo le corse per mettere online la procedura telematica con la quale si potrà fare richiesta della nuova versione del voucher asili nido o babysitter. Entro proprio pochissimi minuti la piattaforma dovrebbe essere operativa per le mamme interessate a fare la domanda. Per ottenere questo contributo retroattivo al 2014 bisognerà farla però entro la fine del mese. Allora, oggi per la nostra parte di Denari vi riepilogheremo il funzionamento di questo incentivo, di questo contributo, che in realtà non è una novità, lo ricorderete, ma una misura prevista in via sperimentale della legge Fornero del 2012. Con noi Matteo Prioschi del Sole 24 Ore, ben trovato. Buongiorno a tutti. E ben ritrovato anche al dottor Luca Sabatini, direttore centrale della direzione prestazioni a sostegno del reddito IMSS. Dottor Sabatini, bentornato anche lei. Buongiorno. Grazie per l'invito. E naturalmente numero verde per gli ascoltatori 800 24 00 24 per tutte le vostre domande su come si fa a fare richiesta del voucher per pagare asilo nido o babysitter. Intanto, Matteo Prioschi, inizio con te. Il voucher è stato introdotto, l'abbiamo ricordato prima, in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dalla riforma Fornero. Budget previsto 20 milioni di euro l'anno. Quali mamme ne sono potenzialmente interessate? Che entità ha il contributo e soprattutto che novità rispetto alla prima versione che abbiamo già visto? Allora, sono interessate tutte le mamme che si trovano negli 11 mesi seguenti il congedo obbligatorio di maternità. Possono essere lavoratrici dipendenti del settore privato, da quest'anno anche quello pubblico, questa è una novità, e anche quelle iscritte alla gestione separata dell'INPS, quindi le collaboratrici, le professioniste e così via. Possono richiedere questo voucher che da quest'anno, seconda novità, ha un importo di 600 euro al mese, fino a 600 euro al mese per un massimo di 6 mesi. Appunto, le novità introdotte da questa versione aggiornata del voucher, appunto, sono sostanzialmente due. Quindi il fatto che la platea di beneficiari viene ampliata includendo le lavoratrici del pubblico impiego e l'importo mensile, prima era 300 euro fissi, quest'anno viene portato, si dice, fino a 600 euro, perché poi è previsto un meccanismo per cui se le domande che arriveranno saranno oltre andranno a esaurire il budget di 20 milioni, potrà essere deciso di escludere alcune domande in base all'indicatore ISEE, piuttosto che rimodulare l'importo, e quindi anziché dare 600 euro se ne danno un po' di meno a tutti, cercando di tutte. Sì. Tu dicevi, insomma, bisognerà vedere quante domande arriveranno e se queste supereranno, appunto, per chiaramente l'importo, il plafond disponibile. Diciamo che se andiamo a guardare l'esperienza precedente, non si sa se questo potrà accadere, perché tu lo ricordavi proprio sul Sole 24 Ore negli ultimi giorni: a fronte degli 11.111 bonus potenzialmente finanziabili con i 20 milioni nella precedente operazione, sono state accontentate solo 3.783 mamme, quelle che sono riuscite a portare a termine l'istruttoria, la pratica praticamente da presentare. Sì, che appunto nel 2013 era diversa, perché bisognava presentare la domanda in 10 giorni, era all'inizio di luglio, secondo delle indicazioni che erano state fornite dall'INPS. Insomma, era un po' più complicata, un po' più macchinosa la procedura. Proprio per quello si è lavorato poi per semplificarla. Il problema è che i tempi si sono prolungati, esatto. E quindi adesso c'è un po' si ritrova sempre a fare la corsa anche questa volta. Anche se so, questo lo dico io, non so se il dottor Sabatini lo vorrà dire, si sta lavorando anche per eventualmente chiedere al Ministero del Lavoro se volesse concedere magari una proroga di 15-20 giorni a gennaio. È in discussione. Chiedo però subito al dottor Sabatini intanto un commento su tutta l'operazione, su tutta l'impostazione. Dottor Sabatini, perché secondo lei questa nuova tranche potrà andare meglio dell'altra in termini di numero di mamme da poter soddisfare? E poi le chiedo anche l'altro aspetto che potrebbe essere sollevato dalle mamme che ci ascoltano e che l'altra volta è stato un po', come dire, anche quell'ostacolo che ha impedito ad alcune mamme di accedere a questo contributo. Le strutture accreditate all'INPS, gli asili nido di cui si può fruire appunto dei servizi per poter eventualmente poi fruire del bonus, erano meno di 2.000 nell'altra operazione a fronte degli oltre 7.000 esistenti in Italia. A fronte appunto di questo limite, il governo ha lavorato per modificare alcune caratteristiche di questo pacchetto. Cosa è cambiato relativamente a questo aspetto? Ma diciamo, le novità sono state già presentate dal dottor Prioschi e sono quindi sicuramente una maggiore appetibilità sull'importo che è raddoppiato del voucher mensile e quindi poi anche del possibile contributo alle strutture. Sicuramente si è allargata molto la platea, comprendendo anche le lavoratrici pubbliche. Io volevo sottolineare magari questo aspetto, che adesso sicuramente in questo scorcio dell'anno, con il decreto pubblicato l'11 dicembre, sicuramente sono aspetti che vengono sottolineati, però in realtà diciamo, il meccanismo è meno a bando della scorsa volta. Diciamo, in realtà è solo nell'ipotesi in cui dovessero entrare così tante richieste da poter diciamo, motivare una segnalazione dell'istituto ai ministeri vigilanti di colmatura dello stanziamento, che si dovrà mettere in funzione questo meccanismo che è stato accennato di possibile rideterminazione dell'assegno con l'indicatore ISEE che sta da spartiacque, diciamo, delle domande. Certo, no, ma volevo chiederle appunto, dottor Sabatini, per quello che riguarda le strutture accreditate, perché se io fossi una mamma che vuole usare il voucher per il nido, devo diciamo, accedere. La base è rimasta quella di una adesione volontaria delle strutture sia pubbliche per l'infanzia che quelle private accreditate, quindi devono essere le strutture, la procedura è rimasta aperta questi mesi di accreditamento, abbiamo anche qualche settimana fa rilanciato un messaggio di sensibilizzazione proprio nell'imminenza della possibile pubblicazione del decreto e quindi si stanno accreditando gli istituti. Certo, i numeri non sono come dire elevati, non abbiamo una platea al momento tale da diciamo da poterle dire che siamo in una situazione migliore della prima sperimentazione, però ripeto, anche questo è dovuto al fatto che stiamo poi anche riprendendo questo argomento che un po' si era con tutti gli approfondimenti e le novità, diciamo, aveva avuto le tradizionali approfondimenti tecnici e quindi adesso che il decreto c'è, è stato pubblicato, c'è l'auspicio che gli istituti, anche su sensibilizzazione magari delle stesse mamme che possono essere interessate, diciamo, a non il voucher ma piuttosto un contributo cospicuo sulla retta di partecipazione, magari a sensibilizzare una loro partecipazione. Certo. Ma è vero, dottor Sabatini, che i 2.000 asili nido che erano già accreditati per la prima operazione adesso devono rifare di nuovo l'operazione di accreditamento? Sì, ma è una conferma, diciamo, è una procedura in realtà molto veloce, cioè è un semplice click di adesione, non devono, anche perché potrebbero aver nel frattempo cambiato IBAN, tutta modalità, diciamo, c'è stata tutta la novità generale delle fatturazioni elettroniche che rendono obbligatori alcuni passaggi in generale, non chiaramente ritagliata esclusivamente per questa operazione, ma in generale che governa un po' tutta la fatturazione verso le pubbliche amministrazioni, quindi chiaro. Sicuramente dovevamo, come dire, una formalità che andava espletata. Una conferma che, dottor Sabatini, ci sono due domande di due ascoltatrici, prima però le voglio chiedere: la piattaforma è pronta? Siete pronti a partire oggi? Sì, oggi parte la procedura, quindi diciamo a soli 5 giorni dalla pubblicazione siamo in grado di rilasciare la procedura, diciamo, è online la circolare con le istruzioni operative, quindi in qualche maniera diciamo da oggi le mamme possono iniziare a interessare, possono iniziare a fare la domanda. Benissimo. Gestita, quindi questo vorrei sottolinearlo se mi consente, verrà gestita quindi a prescindere, non c'è un esito di bando finale, non ci sono un esito di 10 giorni, viene gestita la domanda per, e quindi una volta trovati i requisiti del congedo e del rapporto di lavoro, della presenza, diciamo le dichiarazioni che vengono rilasciate, il voucher possono essere ritirati. Benissimo. Anzi, in questo caso, se mi consente, devono essere ritirati, perché una delle novità tra le pieghe del decreto è che se non viene ritirato il voucher entro 120 giorni si decade dal beneficio. Comunque 120 giorni sono 3, se no sono 4 mesi, ci mancherebbe altro. Quindi non è che arriva, ecco, non è che l'INPS accredita un importo su un conto corrente, ma le mamme devono muoversi e andare a ritirare appunto il voucher. Matteo. C'è Matteo Prioschi? Sì? Sì, no, sono due le modalità, cioè se il voucher fa riferimento se si sceglie a babysitter. Ah, si va a ritirare naturalmente. Sì. Se invece si sceglie un nido accreditato. Sono i buoni che poi si utilizzano per pagare la babysitter. Invece se si sceglie l'asilo, l'INPS paga direttamente l'asilo poi. Dottor Sabatini, ce lo conferma? Sì. La struttura d'infanzia dovrà diciamo fatturare per la parte relativa all'importo all'INPS e l'INPS quindi erogherà direttamente la struttura. Invece per il rapporto di lavoro con la babysitter c'è questa diciamo gestione attraverso i voucher che viene. Ecco, dottor Sabatini, quindi il rapporto di lavoro con la babysitter vuol dire che la babysitter deve essere assunta, cioè c'è un regolare contratto? Mm-hmm. C'è un rapporto di lavoro, diciamo, occasionale, no? di natura occasionale, un rapporto di lavoro specifico, ma in questo senso, per esempio, si potrebbe fare un caso, nel caso in cui avessi la mamma già potesse usufruire di una signora che aiuta nelle faccende casalinghe regolarmente con un rapporto di lavoro. Una collaboratrice familiare, diciamo. Familiare, dovrebbe fare semplicemente una comunicazione per l'INAIL, per diciamo apposita per questo tipo di voucher e potrebbe aggiungersi quindi questo voucher al rapporto di lavoro che sta svolgendo, quindi diciamo è possibile anche avere due tipologie di rapporto contemporaneamente. Il lavoro, come dire, di aiuto domestico, domestico inquadrato secondo il rapporto di lavoro ritagliato per queste faccende, e invece il supporto al figlio e quindi al bambino pagato attraverso i voucher ed è tollerabile questo, ci saranno due accrediti. Ecco, ricordo alle mamme che devono naturalmente fare, speriamo che ce l'abbiano già tutte perché altrimenti lì sono altri giorni da perdere, il PIN dispositivo, altrimenti non si può fare nulla, dottor Sabatini. Adesso chiediamo anche alle mamme se ce l'hanno, quelle che si sono messe in contatto con noi. Sì, può essere, ma il PIN può essere rilasciato anche a vista presso le nostre sedi. Perché diciamo, se no, se si fa tutto online, un po' di giorni ci vogliono. Allora. Luisa, buongiorno, dalla provincia di Vicenza. Benvenuta. Salve Luisa, sono Luisa. Sì. Intanto volevo salutarvi perché siete la mia compagnia in questo periodo in cui sono a casa in maternità. Oh. Delle mie carissime amiche. Grazie, ci fa piacere, quasi delle zie. Sì. Aspettando Luisa, un maschio o una femmina? È un maschio, Ernesto, è nato il 3 luglio, doveva nascere il 5 settembre, è nato con un po' di anticipo. Allora, la mia maternità obbligatoria si è conclusa il 3 di dicembre. Sì, sì. Giustamente e... Ernesto vuole dire la sua. Questo è Leonardo, quello più grande. Allora, io usufruirò, pensavo di rientrare al lavoro ad aprile, usufruendo delle ferie residue e di una parte di maternità di astensione facoltativa. E Ernesto vorrà inserirlo a nido a settembre. E sarei dentro gli 11 mesi, ma riuscirò a usufruire del buono? Ed eventualmente quando lo devo richiedere? Adesso, perché 120 giorni sono troppo brevi per sono me. Proprio sempre quelle situazioni al limite. Luisa, allora non lo so, abbiamo fatto due calcoli, Matteo. No, allora, intanto precisiamo una cosa che prima non abbiamo detto, che il periodo di utilizzo del voucher per pagare la babysitter o l'asilo nido va a erodere il congedo parentale, cioè i 6 mesi ulteriori che si possono prendere oltre il congedo parentale. Ne beneficia la mamma che rinuncia al congedo parentale. Quindi uno deve farsi i conti, quindi deve decidere se utilizzare tutti i 6 mesi per stare a casa con i bambini oppure rientrare dal lavoro prima. Quindi che già Luisa in base a questo è fuori, allora? No, lei adesso ha finito i 3 mesi obbligatori. Vuole a casa tornare ad aprile? Aprile. Sono 3 mesi, 4. Sì. Ne rimarrebbero altri 2 che potrebbe spendere, diciamo, col voucher. O con l'asilo nido. Quindi bisogna farsi i conti, perché una cosa vada l'altra. Però deve farlo adesso, la domanda è tra le mamme che deve fare immediatamente la richiesta entro la fine dell'anno. Allora, questa cosa non è chiara, e chiedo supporto a Sabatini eventualmente, perché appunto il bando, cioè il decreto dice negli 11 mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio, quindi anche l'anno prossimo la signora rientra negli 11 mesi, potrebbe scegliere, potrebbe immagino. Teoricamente, se non finiscono i soldi, farlo più avanti, dottor sì, Sabatini. È corretto, sì, è così. Quindi diciamo può farla adesso, può farla nel 2015, comunque negli 11 mesi successivi alla fine del congedo obbligatorio, quindi è corretto assolutamente. Benissimo, allora io direi di fare i mercati, Nicoletta. Sentire... Sì, poi facciamo un saltino nella provincia di Monza, esatto, Brianza. Barbara, perché c'è Barbara. La sentiamo dopo. Chiedo solo al dottor Sabatini se, siccome deve lasciarci, poi completeremo con Matteo Prioschi, se diciamo da parte IMSS abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, dottor Sabatini, o dobbiamo fare un'altra raccomandazione alle mamme all'ascolto? No, sicuramente ecco, hanno l'opportunità da oggi di poter con il PIN dispositivo, c'è anche l'apporto dei patronati nel caso in cui non riescano a farlo online. La domanda, diciamo, i dati sono i dati anagrafici del bambino, i propri, eventualmente quelli del marito che può aver fruito di congedi parentali e deve aver presentato la dichiarazione ISEE, quindi in realtà la domanda è molto semplice. Certo, c'è questa valutazione assolutamente personale sui congedi parentali, perché giustamente, come ha ricordato il dottor Prioschi, c'è questa sorta di scambio che viene fatto, quindi l'ottenimento di questo beneficio porta a non poter più usufruire dei mesi di congedo parentale che eventualmente sono stati hanno comportato l'attribuzione dei voucher, quindi questo. Grazie Luca Sabatini dell'INPS. Auguri. Sì, perché adesso per gli uffici dell'INPS si apre un periodo e un po' caldo. E anche auguri di buon Natale per un buon 2015. Cuore e denari. Giuri, torna subito qui, sei tutta bagnata. Non voglio lavarmi i denti. Michi. Me li sono già lavati sabato scorso. Michi, finirà che ti cresceranno i funghi in bocca. Bene, così non si comprano al supermercato. Giuri, esci di sotto il letto. Cammina. Io non voglio andare a letto. Michi, va a dormire. Sono già stato ieri notte. Eccoci qua, un bel capriccio scoppia come un fulmine a ciel sereno ed è l'inizio dell'inferno. Pianti, urla, grida, disperati, inconsolabili. I capricci li abbiamo fatti tutti e a tutti sarà capitato di provare a gestire il capriccio del proprio figlio o a subire quello dei figli altrui. Che fare? Cedere o non cedere? Questo è il dilemma. Voi che fate? Che cosa avete fatto? Qual è la strategia migliore? Ignorare il piccolo? Cercarlo di fare ragionare? Minacciarlo con punizioni e castighe? E se fosse una richiesta di aiuto, un modo per attirare la nostra attenzione? Tante domande, a riprova del fatto che i capricci, pur essendo una cosa da piccoli, mettono in difficoltà i grandi che spesso sono imbarazzati e spiazzati sul da farsi. Una sensazione analoga a quella che si prova di fronte ai silenzi ostinati degli adolescenti, ai loro rifiuti, alle loro trasgressioni che suonano da sfida. Ne parliamo tra poco con il nostro esperto, perché ci avviciniamo a un periodo di feste, di vacanze, distanza e passeremo più tempo ai nostri figli, ed è proprio in queste situazioni che molti nodi vengono al pettine, quindi parliamone. 800 24 00 24 se avete un caso da proporci, ad esempio, che so, se già temete che a casa dei nonni vostro figlio darà il peggio di sé a tavola rifiutando il menù di Natale, oppure se come ogni anno vostro figlio adolescente provocherà il fratello di vostro marito con cui sembra avere un'antipatia a pelle, chiamateci, proveremo di prevenire. Ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Si vede che c'è Fabio Cantadori in regia oggi, è impreparato sulle siglette. Naturalmente, ecco che mi ammonisce, mi ha espulsa, ma non importa, noi gli vogliamo bene lo stesso. Allora, non è certo per soddisfare un capriccio, ma per esigenze reali e concrete che le neomamme che vogliono accaparrarsi, diciamo così, il voucher babysitting da 600 euro stanziato dal governo per un totale di 20 milioni di euro in un'operazione che era già nota in quanto sperimentalmente prevista dai tempi della legge Fornero. Nella nuova versione, li abbiamo spiegati prima, ci sono degli aggiustamenti rispetto all'operazione dello scorso anno che aveva permesso di accontentare molte mamme, ma molte meno del potenziale possibile. Matteo Prioschi del Sole 24 è rimasto con noi per spiegarci gli ultimi aspetti di questa operazione. E allora 800 24 00 24, direi di sentire subito la mamma che era in Barbara. Attesa. Barbara, buongiorno Barbara, benvenuta. Buongiorno, esatto. Buongiorno. Ci dica dunque, tutto. Io sono mamma di Roberto dall'8 marzo, anche Roberto è nato con 3 mesi di anticipo. Abbiamo superato. Che ci hanno fretta questi bambini. Hanno poi fretta, sì. Ci fanno impazzire da subito. Anche la mia ultima nipotina Barbara, nata mannaggia, guardi, un mesetto prima. Dunque, io sono una lavoratrice autonoma. Ho il mio studio, ho partita IVA e lavoro, vabbè, sono una lavoratrice autonoma, quindi non ho mai smesso di lavorare, non ho avuto nulla dal, se non un piccolo obolo dall'INPS, però altri diritti. Ecco, io mi chiedo se quest'anno l'INPS ha deciso di allargare i diritti per il voucher anche alle lavoratrici autonome. In realtà poi Barbara non è, esatto, non è purtroppo una decisione dell'INPS, il problema qua che è una decisione dello Stato di mettere a disposizione un tot di risorse. E temo proprio di non poterla accontentare, questo è un altro bel limite di questa operazione, Matteo. Sì, possono accedere appunto solo le lavoratrici dipendenti o le iscritte alla gestione separata, quindi sono alcuni tipi di collaboratori di lavoratori autonomi, un numero abbastanza limitato, quindi se la signora non è iscritta alla gestione separata ma appunto ha un ordine professionale, quindi con relativa cassa pensione e così via, non rientra in questa operazione. Se vuole, sul sito dell'INPS, Barbara, ci sono tutte le istruzioni dove proprio figurano anche le non ammesse al beneficio, le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione, le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi, eccetera, eccetera. Comunque, purtroppo, Barbara, non possiamo accontentarla, visto che siamo sempre in costante fase di ripensamenti su tutta l'operazione, magari si potrebbe un po' anche allargare la platea, peraltro, visto che anche l'altra volta i 20 milioni sono stati utilizzati tutti perché c'era tutto il problema dei nidi non accreditati e quant'altro, invece che buttarli, se si accontentassero delle mamme che lavorano, no? Sì, no, in effetti, peraltro, nella prima versione del decreto, nella bozza, si ipotizzava di utilizzare i 15 milioni avanzati dal 2013 e di ridistribuirli su questi 2 anni a venire. Poi invece nella versione definitiva questa ipotesi non c'è più e quindi siamo rimasti a 20 milioni per quest'anno e 20 milioni per l'anno prossimo. Il 60 nel triennio, infatti. Esatto. Allora, Nicoletta, allora volevo chiedervi una cosa, di una informazione che chiede Michele. Il voucher è valido anche per chi porta il bimbo in un nido in famiglia accreditato dalla regione? Allora, l'importante è che gli asili poi facciano richiesta di inserimento in questo elenco che sarà pubblicato sul sito dell'INPS. Sì. Gli asili possono essere pubblici, privati, accreditati o autorizzati dalla regione e dai comuni. Però se questi asili non chiedono appunto di essere inseriti nell'elenco dell'INPS, il voucher non può essere utilizzato in queste strutture. Quindi dobbiamo fare questa verifica. Sì, in teoria quando si farà la domanda, cioè uno può entrare nel sito INPS e ci sarà l'elenco nel momento in cui uno fa la domanda potrà accedere contestualmente all'elenco delle strutture accreditate. Beh, magari diciamo, intanto si fa prima chiedere all'asilo se si è accreditato, sì, per l'operazione, così si va, sì, a colpo sicuro, direi. C'era un papà che scriveva: non riesce stamattina a collegarsi alla pagina, si sta allestendo in questi minuti, per cui probabilmente la difficoltà è legata anche al fatto che siamo proprio, come dire, a ridosso dell'avvio. Abbiamo dato la notizia proprio fresca, esatto. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde che potete utilizzare per continuare a fare le vostre domande. Avete ancora un paio di minuti di tempo su questo argomento. Matteo, ammettendo che tra oggi e domani le mamme all'ascolto e che ritengono di avere requisiti, si volessero mettere a compilare la domanda, si mettono davanti al computer, secondo te con quali documenti a portata di mano per poter fare velocemente? Ma documenti fondamentali avere l'ISEE, perché appunto se quest'anno anche, cioè quest'anno in teoria non è fondamentale e probabilmente non lo sarà, visto che ci sono 15 giorni per fare domanda, diciamo che è improbabile che si sfondi il tetto dei 20 milioni, quindi in teoria molto probabilmente chi farà domanda riuscirà ad ottenere il bonus, però comunque verrà chiesto, quindi l'ISEE bisogna averlo sotto mano. Un altro bel problema peraltro si apre, perché tu sai che dall'anno prossimo c'è l'ISEE nuovo. Esatto, però per il momento diciamo fino al 31 dicembre diciamo quello vecchio e bisogna avere quello e dovrà essere inserito nella domanda. E poi gli altri documenti sono quelli diciamo base, cioè le informazioni anagrafiche della madre, uno del stato figlio, di famiglia, oppure ecco il nome che va messo è solamente quello della mamma con figlio o serve il nome di entrambi i genitori? Prima il dottor Sabatini forse diceva che vanno indicati entrambi, sì, i genitori, bisogna indicare il nucleo familiare. E comunque vabbè, l'unico documento diciamo aggiuntivo fondamentale è l'ISEE, poi per il resto sono informazioni che tutti dovrebbero sapere. Leggo qualche istruzione che ho sotto gli occhi: indicare il periodo di fruizione del beneficio durante la compilazione della domanda, naturalmente specificando il numero dei mesi, dichiarare la rinuncia alla fruizione, lo dicevamo prima, del numero di mesi di congedo parentale, perché altrimenti appunto qua non si procede. E insomma, allora, altre raccomandazioni? No, una considerazione appunto: se diciamo da un certo punto di vista la fruizione del voucher presso gli asili nido appunto è un po' più complessa, perché appunto bisognerà verificare se la struttura è accreditata o meno e così via. Molto più semplice è se si utilizza i servizi della babysitter, cioè se uno sceglie di pagare la babysitter con questo voucher non ha problemi di effettuare tutte queste verifiche, semplicemente inoltre la domanda e poi potrà andare a ritirare i buoni presso la sede dell'INPS per pagare poi la collaboratrice. Un ascoltatore chiede se ci sono limiti sul reddito, mi sembra che non siano indicati da nessuna parte, o sì? No, allora, no, c'è l'ISEE naturalmente, c'è l'ISEE. Cioè, lo indica. Nella prima versione l'ammissione alle domande era basata sull'ISEE, su un indicatore. Adesso è residuale questa opzione, cioè adesso si dice se le domande che arrivano non esauriscono i 20 milioni sono tutte accolte. Si accontentano tutto, quindi anche se uno guadagna 5.000 euro al mese, se c'è disponibilità può prendere anche 600 euro di contributo. Se invece le domande andranno oltre il budget di 20 milioni si deciderà come intervenire, appunto, o dando la priorità a chi ha un ISEE più basso, piuttosto che diminuendo l'importo del 600 euro. Però voi intanto, come si dice, per non saperne leggere né scrivere, fate la domanda. Ultima cosa, per chi ha due gemelli, doppio contributo? È qua. È una bella domanda. Probabilmente sì, perché il contributo è per bambino. Per bambino. Non viene indicato nessun tipo di limite in questo senso. Due per gemelli? Cui provare. Sai che adesso i parti gemellari, sai che se ti arrivano 1.200 sono in crescita? Sì. 2, 3 gemelli, 6 per 3, 18, 1.800 euro di babysitter. Buttali via, però tre bambini. Va bene, grazie a Matteo Prioschi. Monitoreremo questa situazione, vedremo nei prossimi giorni se sarà il caso, magari prima di Natale, di ritornarci. Nicoletta. Allora, noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade. A chi sorridi? Sorrido a Rudy, che è uno dei miei preferiti, anche perché è nato il mio stesso giorno. Guarda, non siete, dello stesso anno, scandalosi. Ma non lo diciamo, perché poi gli ascoltatori dicono: ma allora sarà il 17, era un venerdì, ecco, allora qua sarà dell'anno. E io non sono espulsa e tu sei la sua preferita. Vabbè, me ne così farò una ragione. Siamo gemellini. Cuore e denari. C'è chi dice dice no e c'è chi invece proprio non ce la fa. Eppure anche i no aiutano a crescere, come le parole, le carezze, i giochi che facciamo insieme ai nostri bambini. Ma tornando ai no, quali sono i no che fanno bene ad un bambino? Quali sono e soprattutto come si insegnano? Oggi riflettiamo insieme sul tipo di genitore che siamo, sul nostro stile educativo, ma anche sul tipo di educazione che abbiamo avuto e che probabilmente condiziona il nostro essere genitori oggi. Una riflessione a voce alta per confrontarci sulle sfide che quotidianamente la vita ci mette davanti, anche nel dare e nel far rispettare le regole, ad esempio. Meglio poche ma buone, si dice, ma al di là del numero, quali sono proprio quelle che fanno la differenza, quelle che insegnano a crescere, e come si convince il piccoletto a rispettarle? Voi che strategie adottate? 800 24 0024 in studio con noi è tornato a trovarci Alberto Pellai. Adesso apriamo le qualifiche, perché lui dice Alberto Pellai punto, in realtà Alberto è medico, ricercatore all'università, psicologo, psicoterapeuta, scrittore, guarda, amico beato di cuore Denari, che trova il tempo di fare tutto quanto, papà di quattro figli, ecco, soprattutto splendido cinquantenne, perché bravo, oggi guarda, compie anche 50 anni e viene a festeggiarla a cuore Denari, grandissimo nostro amico, per fortuna che c'è Alberto che ci supporta e sopporta. È proprio un giorno di festa, allora, perché ma... non solo compio gli anni, ma sono qua con due grandi amiche, soprattutto che sono Natale, a Radio 24. Che Natale strepitoso per te quest'anno, eh? Eh sì, è vero, è vero. Comunque il tema di oggi mi sembra davvero un tema sfidante. Noi genitori ci siamo dentro tutti. Ogni sì. giorno ci domandiamo, ma starò facendo la cosa giusta per E quale fare? E già nel titoli di alcuni tuoi libri, che sono davvero tanto, ci sono delle indicazioni. Già i titoli sono molto esplicativi sul tema di oggi. Prendiamone qualcuno a caso. Ma guarda, prenderei il titolo di un mio libro, E ora basta, perché credo che sia una frase molto importante da dire a volte ai figli, e credo che per alcuni genitori invece risulti spesso una frase impossibile. E ora basta è importante perché mette dei confini. Se penso a un altro mio titolo, direi lasciatemi crescere in pace, che è una frase che i figli, no, magari tante volte ci dicono, mamma, papà, lasciami crescere in pace. Io terrei proprio dentro a questo titolo l'invito in pace a immaginare una relazione genitori-figli, che è una relazione magari a volte faticosa, ma che deve essere veramente orientata all'armonia, al contatto. E poi c'è, secondo me, un titolo di un mio libro che è tutto un programma. Nicoletta, tu lo conosci molto bene, questa casa non è un albergo. È certo, l'appuntamento. La trasmissione cult del sabato di Radio 24. Che in realtà è una frase geniale, infatti sì. È sopravvissuta a generazioni e generazioni di genitori e figli. Credo che in questa frase, questa casa non è un albergo, ci sia proprio uno stimolo forte all'autonomia, cioè al fatto che man mano che tu cresci, io e te diventiamo non più solo un genitore, un figlio, ma una squadra che coopera nella costruzione di una relazione e di una attenzione ai bisogni reciproci dentro casa. 800 24 0024 per parlare dei tipo di genitori che ci riconosciamo, che siamo oggi, ma dei genitori anche che abbiamo avuto. 349 238 6666 il rido perché stanno arrivando dei sì. messaggi molto spiritosi. Esatto, chi nella piena consapevolezza ha avuto un'infanzia con genitori abbastanza dirompenti, direi. Enrico da Napoli ci scrive: mazza e panella fanno i figli belli, si dice a Napoli, ne ho avuti di calci nel sedere, ma me li meritavo davvero, ero un piccolo Conan il barbaro. Patrizia invece scrive: io ho tre figli di età diverse, con i capricci ho capito che ci vuole un vagone di pazienza e, se il tempo lo permette, una bella e sana biciclettata al parco. Sono una vostra grande fan, vi adoro. Mi piaceva leggere anche questa parte. Sì, grazie Patrizia. Allora Alberto, le regole lo sappiamo, qualche regola poche ma buone, si dice, no? Bisogna darle, ma come mai i genitori fanno così tanta fatica a insegnarla ai loro figli? Lasciamotelo dire, questo sembra un po' essere più un problema nostro, di questa generazione nostra di genitori, rispetto a quello del passato. Ma io credo che probabilmente è perché facciamo meno figli, è perché quando arrivano i nostri figli vogliamo proprio farli entrare in una vita perfetta dove non devono soffrire mai, e conseguentemente mettere delle regole, stabilire dei confini, sostenere a volte dei no, magari in modo anche molto fermo, significa fargli sperimentare piccole frustrazioni, e le piccole frustrazioni sono necessarie nel percorso di crescita, altrimenti il bambino che non sente di avere cornici, limiti, in qualche modo un percorso. Ecco, queste cornici sono a volte anche rassicuranti. Sì, danno molta sicurezza, certo, al bambino. Fondamentalmente un bambino che scapriccia, se trova davanti a sé un genitore non arrabbiato, ma tranquillo, autorevole, fermo, che gli dice questo capriccio non ti porta da nessuna parte, alla fine si placa proprio, perché sente che la sua rabbia e aggressività sono proprio contenute in una scatola solida e forte, che è quella del suo papà e della sua mamma. E questo vale anche per le zie, purtroppo. Se, che fanno un po' più fatica con i no, però pazienza, devo dire che qualche volta ci si prova, ma d'altronde le zie sono lì per essere zerbinate, brava, no? Brava, io sono assolutamente della tua idea. Enrico ci ha scritto appunto il messaggio: mazza e pannella, fanno i figli belli, ha avuto tanti calci nel sedere. Ma allora prendiamo spunto dal messaggio di Enrico per provare a raccontarci quello che ci ha aiutato a crescere. Magari un no, una regola che ci è stata imposta quando eravamo ragazzini, che proprio non ci andava giù, che però a distanza di anni, un esempio che ci ha dato il nostro papà o una nostra mamma. 800 24 00 24. Riuscite a dire no ai vostri figli? E che tipo di genitori siete? Andiamo subito a sentire la nostra amica che ci chiama al nostro numero verde. Ha superato la barriera rosa di un salto. E poi si chiama Serena, per cui chissà quanta serenità dovrà sfoderare con i suoi tre pargoli, un po' grandicelli peraltro. Beh, insomma, età diverse. Serena, benvenuta. Sì, salve, buongiorno a voi, grazie. Sì, io ho tre figli di 17, 13 e poi un'ultima arrivata di 3, fuori programma, arrivata diciamo così proprio come un dono così inaspettato, e quindi sicuramente la gestione è molto complessa perché le esigenze sono assolutamente diverse. Le vite dei tre sono diversi, noi non viviamo nella città ma poco vicino alla città, quindi i movimenti anche sono diversi secondo le loro esigenze, però credo che la cosa fondamentale sia considerare il fatto, questa è una mia telefonata di diciamo fiducia a tutti coloro che sono nella situazione mia e di mio marito, e che sono figli, sono dei doni che ci vengono dati, diversi tra loro, ai quali bisogna assolutamente dare dei limiti, come diceva appunto il vostro ospite, perché altrimenti è impossibile la gestione, ma anche l'educazione, diciamo, per farli crescere, per donare loro anche una serenità, molto amore e molta pazienza, perché ovviamente, come nel mio caso, mi trovo spessissimo di fronte a situazioni in cui tutti e tre desiderano delle cose o mi richiedono cose. E non si può certo dare tutto a tutti, bisogna fare delle scelte. Amore e pazienza, la ricetta di Serena da Roma, a cui auguriamo un buon Natale, un 2015 felice e sereno con i suoi tre bellissimi bambini e naturalmente suo marito. Cuore e denari. E quello cos'è? La borsetta. Una borsa, quella cosa orrenda. A me piace, però dentro ci sono le cose mie. E che cosa ci vuoi fare? Io me la voglio portare. Non ti metterai a fare un capriccio adesso, guarda che non è il momento. Fa lo stesso, tanto io me la porto. Silvi. Senti Silvi, adesso basta, Fa lo stesso. Ah, fa lo stesso, Improvvisi e violenti, i capricci ci mettono spesso in difficoltà, e noi torniamo proprio a parlare di capricci per parlare anche dei no che fanno crescere, del nostro stile educativo. Riguardo ai capricci, Alberto Pellai è in studio con noi, ci sono varie teorie, c'è la scuola che suggerisce di ignorare il bambino, chi invece pensa che sia una richiesta d'aiuto. Interessante è anche la lettura che fa Marcello Bernardi, noto pediatra, ha scritto un libro molto interessante, Il nuovo bambino. Lui sostiene che il capriccio è tanto più spiccato e intransigente quanto più oppressivi sono i genitori, e continua scrivendo: se il bambino si sente dire continuamente veramente no a tutto, non potrà che difendersi col rifiutare tutto in blocco ed abitudine. A conti fatti, sono molti di meno i no di un bambino dei no dei genitori. Alberto, tu che sei un genitore e sei anche un addetto ai lavori, che cosa dici? Sei d'accordo con questa lettura oppure... Penso che la frase contenga molte verità, cioè tanto più, è un po' come il meccanismo della pentola a pressione, tanto più aumenti la pressione del vapore dentro alla pentola, tanto più avrai sbuffi di vapore che continuano ad uscire. In qualche modo la relazione genitore-figlio dovrebbe un po' essere una sinfonia. È chiaro che è molto più facile a dirsi che a farsi, sì. Ma è proprio vero che quando un bambino si sente sentito dal suo genitore, ha molto meno bisogno di continuare a tenere l'attenzione centrata su di sé o a fare richiesta, perché è come se funzionasse quasi in modo automatico. Io so che quello che mi deve succedere è ben chiaro nella testa di mamma e papà, che sono proprio le persone migliori che mi fanno, sanno farmi felice, sanno quello di cui ho bisogno, quindi non ho bisogno di chiedere tanto perché già c'è. Ma speriamo che sia vero, Alberto. Noi parliamo di capricci, di solito pensiamo che a farli siano i bambini piccoli, ma parliamo anche dei capricci mascherati oggi degli adolescenti. Insomma, vorremmo riflettere sul nostro stile educativo, come che tipo di genitori siamo, riprenderemo un po' i nostri profili, ma vogliamo anche parlare delle cose che ci mettono in difficoltà. Alberto ci raccontava che ha visto questi genitori molto spiazzati di fronte ai bambini che di fronte ad uno spettacolo teatrale si erano impauriti di questo principe che evidentemente era mascherato, e Alberto raccontava fuori onda a me e a Debora che notava che questi genitori non erano in grado di arginare un po' la paura, fondamentalmente di fronte alla paura del bambino cercavano di farlo stare lì nello spettacolo dicendo shh, fai silenzio, che significava non entrare proprio dentro alla cosa che aveva spaventato il bambino. Quindi io avrei fatto così, gli avrei allontanato il bambino per un minuto fuori nella sala, lo avrei tranquillizzato, rassicurato, e poi l'avrei riavvicinato piano piano al posto dove c'era la sua poltroncina, e gli avrei detto con calma, vedrai che adesso lo spettacolo va avanti e tu te lo potrai godere. Tu però mettiti un'etichetta, un cartellino, no? Quando vai in questi posti, così sono Alberto Pellai, SOS, chiedete. Esatto. E allora, a proposito di bambini che mettono in difficoltà, ci racconta una mamma: mio figlio ha 3 anni, fa dei capricci da indemoniato. Neanche le botte, le urla, nulla lo calma. Quelle poche volte che capita per me è terribile. Poi ci aggiunge un aspetto un po' delicato: io lo sto crescendo da sola e quando capita, Alberto, è dura. Direi che a 3 anni, quando il bambino fa i capricci, fa un po' il suo mestiere, perché è proprio quella zona della vita dove diventare grandi significa anche un po' misurare il potere che hai nel confronto del potere degli adulti. Forse direi a questa mamma che botte e urla non aiutano a contenere il capriccio, serve un genitore che non perde il controllo di sé. Se il capriccio è una perdita di controllo da parte del bambino, un genitore fermo, autorevole, forse di fronte a questo bambino un po' indemoniato, la cosa che serve più è proprio un contenimento fisico. Vieni qua, ti tengo stretto dentro al mio abbraccio, quindi è un gesto che contiene e intanto comunica affetto, e intanto con voce bassa nelle orecchie dico: tu devi ritornare calmo, oppure c'è qualcosa che adesso ti rende molto arrabbiato, ma vedrai che fra 5 minuti tutto sarà passato. Quando sarai tranquillo, io e te potremo fare una cosa bella. 800 24 00 24 capricci, silenzi ostinati degli adolescenti, trasgressioni, che cosa ci mette in difficoltà? Alberto, avevamo tratteggiato, estremizzandole naturalmente, 4 tipologie di genitori: il genitore signor sì, il genitore spazzaneve, il genitore mister e il genitore falco. E abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di provare a riconoscersi, anche se questi stili evolutivi possono convivere o possono alternarsi, non si è sempre solo falchi o signor sì. Alberto, qualche indicazione? Ma direi che il genitore signor sì è il genitore che sta sempre a fianco di un bambino, di un figlio, a quel punto diventa un po' come un migliore amico, che è una caratteristica che ogni tanto serve a un figlio, ma non può essere sempre quello il codice. Il genitore spazzaneve, che è quello che sta davanti per proteggerlo da ogni frustrazione e insoddisfazione, è un genitore perciò che sta davanti, ma che proteggendo così tanto il proprio figlio, spianandogli sempre la strada, non lo allena ad acquisire quelle competenze che poi servono realmente per diventare grandi. Il genitore mister, che è quello che vuole suo figlio sempre vincitore, sempre al primo posto, magari un genitore che sta dietro e continua a spingere il figlio, ma chiaramente genera un sacco di ansia e di pressione. Mi piace molto l'immagine del genitore falco, perché sì, però è la più difficile, dai. Però è tutti quella che, a cui ci possiamo ispirare, no? Un genitore che probabilmente, muovendosi a 360 gradi, sa stare un po' davanti, un po' di fianco e un po' dietro, e quindi si gioca bene tutte le funzioni del genitore, e conseguentemente può essere di sostegno, può essere di protezione, può essere anche di condivisione, amicizia. Allora, 800 24 00 24, guardi Paola da Milano, quando abbiamo letto l'anticipazione del suo commento abbiamo detto è nostra. È nostra. Paola, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno Paola. Salve a tutti, complimenti per la trasmissione, voi due siete splendide, vi ascolto sempre. Io sono sicuramente un genitore spazzaneve, sono stata, perché ora mio figlio ha 41 anni, ha la sua famiglia, però io sono rimasta molto molto scioccata quando al compimento dei 18 anni circa mio figlio un giorno mi ha detto: mamma, ti vorrei dire una cosa. Senti, ma tu non mi avevi detto che la vita realmente era così? Io pensavo che fosse tutta dolce, tutta come tu e papà mi avete fatto credere, e mi è cascato il mondo addosso. Però evidentemente poi a Paolo lei ha dato anche delle ali, come dice spesso Alberto, ha dato delle buone radici, delle buone ali, e quindi ha riconosciuto sicuramente che la vita è dura, più dura di quella che magari si immaginava, protetto dall'amore familiare, ma evidentemente poi aveva le gambe per andare avanti da solo, Paolo, perché anche certo, l'affetto infatti nutre, vero? Sì. Comunque sta andando avanti anche bene, perché è un agente immobiliare, vabbè, anche se non va tanto bene per noi in questo momento. E adesso lui si ritrova con un'altra problematica, perché ha due bimbe meravigliose, e io sono innamorata, pazza delle mie bambine. Però dormono tutti nel lettone con la mamma e il papà. Non c'è verso! Anni. Perché Anni? Anni, perché è importante. Anni delle bambine, no. Paola? Come? Anni? Sì. È importante, 3 anni e 9 anni. Beh, anche perché devono avere un bel letto, un lettone super e poi si mettono a dormire sempre di traverso questi piccoli, tra l'altro. Quanto spazio occupano questi piccini quando letto entrano veramente nel lettone e diventano maxi? Alberto? Ma direi che forse in questo il figlio di Paola può anche lui un papà spazzaneve, no? Che se le tiene tutte lì e cerca di proteggerle nel buio della notte, ma potrebbe davvero cambiare il copione. Tra spazzaneve, signor sì, e signor sì. Questo papà e questa mamma potrebbero davvero dire che queste due bambine di 3-9 anni adesso possono progettare un modo molto nuovo di passare la notte. Dentro alla camera possiamo mettere qualche nuovo oggetto, oppure una lucina che fa le stelle sopra il soffitto, e molto incitare le figlie e far sentire loro che sono in grado di stare nella loro camera e di dormire fuori dal lettone. Tutti i bambini che stanno dentro nel lettone quando hanno 6, 7, 8 anni in realtà hanno imparato a fare questa cosa, ma non hanno mai imparato a stare nella loro camera, perché i genitori non hanno mai veramente autorizzato questa cosa, non hanno mai permesso loro di staccarsi, di andare in un altro luogo. Se la mamma e il papà sono fermi nella convinzione che le due bambine ce la possono fare, datemi retta, le bambine ce la faranno. Nessuna bambina di 9 anni è morta perché è stata tirata fuori dal lettone, lo dice l'epidemiologia. 800 24 00 24, tanti messaggi. Uno voglio leggere, di Nadia, che ci scrive da Venezia e dice che è bello vedere da nonna che il proprio figlio, ora papà, allenato a gestire i suoi capricci, adesso è aiutato a far crescere il suo bambino, insomma, no, crescendo si impara. Dove vuoi andare? A Palermo, a Firenze o nella provincia di Monza, Brianza? Andrei a Palermo perché non ci siamo ancora andati. Arancine, sai, o arancini si dice, si chiamano Marica a Palermo, che non lo so mai. Marica? Sì, pronto? Buongiorno, ci sono le arancine o gli arancini? Come si dice esattamente? Quelle cose buonissime di riso? Noi le chiamiamo le arancine. Le arancine. Non so come si chiamino. Le arancine. Le arancine, va bene. E lei che tipo di genitore è? Dialogo molto, sono molto amica, però ho capito che non è il caso di essere amica, molto amica dei figli. Nel senso che è un bambino di 12 anni e ho sempre cercato di fargli capire le cose, il divieto è stato sempre spiegato con il perché di quel divieto, però mi rendo conto che a volte i figli ne approfittano. Ad esempio? Per avere qualche consiglio sull'uso del cellulare che abbiamo fatto quest'anno. Quanti anni ha? Scusi Marica, il suo bambino? Deve compiere 12 anni, quindi... Perfetto, siamo proprio nell'età critica della richiesta del cellulare. C'è chi lo chiede anche molto 8, prima 9 e lo anni, tiene, lo molto tiene. Alberto? Ma io direi che i figli vogliono tutto subito e il più possibile. Un genitore invece rispetto al cellulare in mano a un figlio di 12 anni deve avere un suo progetto educativo. È molto importante decidere quando sì, ma soprattutto quando no. Quindi definire delle zone franche dove il cellulare non deve essere a disposizione di un figlio, che devono essere rigorosamente le zone dei pasti e le zone dello studio. Quindi soprattutto con preadolescenti tra gli 11 e i 14 anni, che sono molto appassionati di WhatsApp, social network, navigazioni varie. Vedi che sei preparato, Alberto, su questo. E queste cose interrompono molto il flusso dell'attenzione e della concentrazione, generate un periodo nel pomeriggio che è quello corrispondente alla fase di studio, di solito tra le 15 e le 17, dove il cellulare non è vicino a loro, anzi è proprio in un altro posto, in un'altra zona, e lo potranno riavere alla fine della sessione di studio. Direi che partendo, e soprattutto poi spento di notte e non nella camera dove dormono. Ecco, direi che queste sono le regole. E queste regole non vanno molto negoziate, cioè le deve avere chiare in testa l'adulto, perché servono a un figlio per star bene e per usare bene il proprio cellulare. Allora, devo dire che il lettone con le due nipotine della nostra amica ha scatenato di battaglia di stamattina. Ecco, ha scatenato gli interventi dei nostri ascoltatori. C'è chi chiede come fare e c'è chi invece suggerisce soluzioni. Una, ad esempio, è le chiuderei a dormire e punto. Quando si stancano di piangere dormono e dopo tre sere non piangono più. È proprio questa è la ricetta di un nostro ascoltatore, che una ricetta. Non è anche un po' la ricetta di fare la nanna, no? Sì, esatto. Io direi che senza essere così drastici, a 3-9 anni metterli a dormire nella loro cameretta non è un favore che ci fanno, un obbligo che gli imponiamo, è proprio un'aspettativa che possiamo condividere. Sei pronta? Ce la fai? Lo farai. Alberto, ci scrive un ascoltatore, ma Alberto riesce a far rispettare tutto ai suoi figli? È una lotta ogni giorno, combatto con i miei figli esattamente come tutti gli altri genitori, e devo dire però che ho alcuni pensieri forti e chiari nella mia funzione di genitore, che dico a voce alta con i miei figli e quali ispiro anche il mio comportamento, e in questa logica dialettica e a volte anche molto conflittuale tiriamo avanti anche in casa nostra. Tiriamo avanti. Ecco, a ciascuno il suo mestiere. Assolutamente. Ecco. Andiamo da Barbara da Firenze, che aspetta da un pochino. Barbara, buongiorno. Benvenuta. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, l'argomento mi piace tantissimo, perché io veramente mi sono molto impegnata per l'educazione dei miei figli. Ho avuto, secondo me, un genitore, un babbo e una mamma falco. Mm. E diciamo che le parole chiave della mia educazione sono state: arrangiati, però fai di testa tua, non guardare gli altri. Mi sembra di sentire mio padre, Barbara. Stamattina mi ha fatto fai fare finta un tuffo di essere nel passato. Solo come te la caveresti? Sì, è un po' senti, quella. Sì, però devo dire che gli sono grata. Inconsapevolmente ho anch'io adottato questo metodo, ma proprio inconsapevolmente. E sentendo voi, ho ritirato fuori il libro di Marcello Bernardi, edizione 82, certo, a cui io ho fatto moltissimo riferimento, Il mio nuovo bambino. È quello che abbiamo citato in apertura. Dell'82, pensa, ce l'ho sul tavolo di cucina. Quanto era avanti? Tantissimo. E siccome tutti volevano dire qualcosa sui miei figli, il primo bambino, io seguivo lui, che era fuori dalle parti. e anche un certo Sarti che... Pronto? Sì, sì, ah, ti stiamo sentendo. Sarti che diceva appunto che il bambino deve essere trattato come un amante, con dolcezza. E io, ecco, fin da piccoli ho cercato di vederli come... piccolini in crescita, adulti in crescita, e quindi ci siamo tanti divertiti insieme e abbiamo, diciamo, dato delle regole. In casa mia le regole c'erano almeno fino agli 8-10 anni, regole banali, comportamentali. Sì, come quelle a cui faceva riferimento Alberto, regole che sono una cornice e che... serve, è utile, io penso, sia ai genitori, non solamente ai bambini, ma anche ai genitori. Grazie Barbara per averci chiamato, un abbraccio e tanti auguri. Ciao. Grazie, ciao ciao. Devo dire che delle tante cose belle che ha detto Barbara, terrei poi questa frase: ci siamo tanto divertiti insieme. Anche credo che proprio un buon genitore effettivamente sente il suo dovere di genitore, la fatica di genitore, il mestiere del genitore, ma mentre sta facendo tutta questa fatica deve farsi anche delle sane, sonore, grasse risate, perché i figli poi questo sono nella nostra vita, non un impegno e un dovere, una preoccupazione continua che non può mancare, ma sono anche effettivamente un raggio di luce e un sacco di sorrisi. Se io in questo momento sto pensando al mio Pietro, ieri mi ha fatto tanto ridere, mi viene da ridere di nuovo. Paola, buongiorno dalla provincia di Monza Brianza, benvenuta. Sì, grazie, grazie, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione, vi seguo appena riesco. Grazie Paola. Grazie, gentile. Ci dica. Allora, io ho due bambini di 6 e 4 anni e mezzo, femmina e maschio. Devo dire che sono stata anche fortunata, perché secondo me una dose di fortuna ci vuole un po' sempre, nel senso che sono due bambini bravi, insomma, non difficili, insomma, non riusciamo a seguirli bene. Volevo dire che tante volte... io credo di provenire da due genitori falco definitivamente, e me ne sto rendendo conto adesso che ho figli a mia volta e le ringrazio, sarò grata a loro per sempre. Tante volte non si ha l'idea che cresciamo dei bambini che poi vanno ad abitare questo mondo, quindi tante volte io vorrei che i genitori avessero l'idea del fatto che stiamo formando, stiamo creando, stiamo crescendo delle future, delle persone. A volte rimangono solo delle parole, ma Paola, è vero, che stiamo crescendo il mondo futuro. Grazie Paola, dobbiamo salutarla. Un saluto e tanti auguri ad Alberto Pellai. Grazie a voi. Grazie Alberto, auguroni. C'è Rudy in regia. Lo salutiamo. Allora, io volevo dirti che domani sono a Roma, sì, ma come un falco, ma come un falchetto. Noi ti chiamiamo. Ti guarderò anche da là. Attenzione. Va bene, mi piace questo. A domani. A domani.